Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantadura in regia, e la prima griglia di partenza stagionale da Shakir Bahrain, prima fila per Vettel e Massa, seconda per l'altra Ferrari, Alonso ed Hamilton, terza per Rosberg e Webber, quarta per Michael Schumacher, Jenson Button e via via tutti gli altri, ma dopo parliamo con calma di Formula 1. Abbiamo la prima griglia di partenza della stagione, abbiamo Andrea Zorzi che è tornato qui con noi. Ciao Andrea. Ciao, ben ritrovati. Ben ritrovato Carlo. Tornato lasciando un po' di voce in giro. Lasciando un po' di voce in giro, ma dicono così sia più sexy, non lo so. Chiedo alle ascoltatrici. 800240024, numero verde, messaggi 349-238-6666. Abbiamo anche un Inter in crisi, un Milan che ci proverà. Io, caro Andrea, sono sempre stato convinto che gli occhi siano lo specchio dell'anima, e nello sport in modo particolare, a maggior ragione. Quindi, per capire, a mio parere, come sta veramente una squadra, bisogna guardarla in faccia, sentirne i battiti. Sei d'accordo? Sfondi una porta aperta. Già si era parlato, io qualche anno fa rubai a Beppe Viola l'ufficio facce. Certo. Quindi per capire un po', guardando la faccia dei giocatori, in che condizioni erano e come avrebbero giocato. Operazione che funziona qualche volta sì, qualche volta no, ma non c'è alcun dubbio che provare da sportivo a guardare la faccia di uno sportivo, qualche segnale arriva. Vero. E quindi, per capirne di più, Non c'è un personaggio migliore, credo, di chi le partite le guarda da bordo campo, di chi fa le interviste subito dopo la partita e sente l'odore e il battito dell'adrenalina. Questa nuova generazione che ha sviluppato un senso particolare per sentire tutto ciò che dicono, per vedere ogni piccolo aspetto e movimento di allenatori, assistenti, giocatori, panchinari, titolari. Sono fenomenali. Sì, sì, straordinari. E poi anche uno che ha avuto il coraggio il dovere di fare la stessa domanda per vari mesi a uno che poi è diventato un suo amico, tanto che ci ha scritto un libro insieme, Carlo Ancelotti. Alessandro Alciato, buongiorno. Buongiorno a voi, solo non chiedetemi se Andrea è più sexy senza voce, perché non voglio rispondere. Grazie. Metti le mani avanti fin troppo così, eh? No, ma aspettiamo le ascoltatrici, caro Alessandro. Ovviamente solo se è vero, se non è vero non importa che me lo bravo, diciate. Bravo. Senti, che guardandoli in faccia, che impressione ti sei fatto del Milan e dell'Inter in questo momento, soprattutto dell'Inter? Dell'Inter è una squadra che un po' di paura inizia ad averla, e anche perché insomma, se domani il Milan vince, poi il campionato inizia a essere di nuovo divertente, ovviamente non per i tifosi dell'Inter, ma per tutti gli altri. Le facce che c'erano ieri sera a Catania credo le abbiano potute vedere tutti, è una faccia di gente spaventata, più o meno hanno le stesse facce, anzi forse un po' meno spaventate, di quelle che avevano i milanisti a Manchester l'altra sera dopo la sconfitta contro lo United. Bisogna solo capire domani che faccia avranno quelli del Milan, perché secondo me si capirà molto dal riscaldamento della partita di domani sera dei giocatori del Milan prima di affrontare il Chievo a San Siro, perché saranno spaventati loro, allora i tifosi dell'Inter potranno esultare. Se invece avranno quella faccia cattiva che hanno avuto per molto tempo, soprattutto negli ultimi tempi, scusate il gioco di parole, in campionato, allora i tifosi dell'Inter dovranno essere preoccupati, insomma. Sì, certo, è difficile immaginare un cambiamento così repentino delle facce da quelle che abbiamo visto l'altra sera a Manchester. Diciamo che se i giocatori pensano ancora a quella partita, se pensano troppo, allora possono non scendere in campo domani, perché vi assicuro che negli spogliatoi, cioè, c'erano delle facce incredibili all'Old Trafford, c'era gente, di solito dopo una sconfitta non vogliono farsi intervistare i giocatori perché sono arrabbiati, lì succedeva il contrario, non volevano farsi intervistare ma erano assolutamente tristi, sembravano smarriti, sembravano persi. Forse è quello che ha fatto più impressione, perché un'arrabbiatura dopo una sconfitta così ci sta, essere così tristi forse ci sta altrettanto, ma poi è decisamente difficile riprendersi, anche se un paio d'ore fa, forse qualcosa meno, Leonardo ha assicurato che già da ieri li ha visti in allenamento con un'altra espressione. C'è questa domanda: riuscirà il Milan a riprendersi? Abbiati, a caldo dopo la sconfitta con lo United, aveva detto sarà difficile ma ci proveremo. Insomma, hanno avuto pochi giorni per farcela, però. Infatti il nemico principale degli allenatori è proprio l'indifferenza che è la mancanza di arrabbiatura, quella situazione in cui è difficile proprio fare qualcosa, trovare un punto sul quale appoggiarsi. Aggiungo una piccola cosa, ricordiamoci però che il percorso di ogni squadra non è indicata sempre con chiarezza, non è che uno è o grintoso, determinato o completamente demotivato. Ci sono delle zone neutre che poi, in base anche ai risultati, ciò che accade, diventano buone o negative. Quindi effettivamente il prossimo incontro del Milan sarà veramente molto importante, perché arriveranno ovviamente un po' demotivati, ci proveranno con la testa a essere concentrati, poi vediamo cosa succede, perché il meno uno effettivamente potrebbe essere una grande motivazione, ma il 4-0 è un'altra buona ragione per essere preoccupati. Non c'è dubbio. Alessandro, sei d'accordo su un Inter, sul fatto, io vedo un Inter particolarmente sgonfia dal punto di vista fisico, e questo mi sorprende enormemente, perché ormai, come sappiamo, la preparazione si calibra, e in questo momento, in teoria, una squadra che vuole essere protagonista nel finale di stagione deve scoppiare di salute. Sì, oggi parlavo proprio all'ora di pranzo col dottor Volpi, insomma, che, sì, che su certi argomenti è veramente il numero uno, e lui ha detto una cosa che forse è scontata, ma non è poi così tanto scontata. Dice: vai a vedere l'età media delle prime tre squadre della Serie A, sono le tre squadre più vecchie che ci sono, perché si sfiorano i 29 anni per dire, per quanto riguarda il Milan, l'Inter e poco meno. Certo è che quando incontrano delle squadre anche più deboli, ma con gente più giovane, è ovvio che poi quelle altre squadre alla lunga, verso la fine del campionato, corrano meglio e soprattutto corrano di più, che forse era una spiegazione che avevano tutti davanti agli occhi, ma sinceramente io non l'avevo proprio colta così nell'immediato, invece credo che sia proprio quello, anche perché quando queste squadre grandi corrono per tanto tempo, arrivano verso febbraio-marzo, che è il momento clou, il momento del dentro fuori, il momento delle grandi scelte per quanto riguarda i risultati, e assolutamente si sgonfiano. L'ha fatto il Milan nei confronti del Manchester United, l'ha fatto l'Inter nei confronti del Catania, che è una squadra decisamente più giovane. Certo, bisogna vedere chi tiene fra Inter e Milan di più da adesso fino alla fine della stagione, però quello veramente è difficile stabilire. Dirlo ora è difficile, proprio perché giocatori più anziani, anche se anziani forse non è il termine esatto, sono anche più logoro. Intanto vi dico in diretta che il Chelsea, questo esatto, interesserà ai tifosi dell'Inter, ha segnato con Drogba uno nuovo, non l'avevamo ancora visto, 2-1 per il Chelsea su West Ham. Volevo parlarne giusto tra un attimo, Andrea, se mi permettete sfiorerei per un istante solo l'universo Mourinho, tutto ciò che significa il fatto che fosse squalificato. Lo so. Perché io ripeto, ho sempre creduto che la relazione che c'è tra allenatore e giocatori, l'intensità, gli sguardi, la reattività siano un segnale molto importante di un legame che c'è. Il fatto che ieri sera Mourinho fosse un po' più distante rispetto al solito, sostituito da Baresi, potrebbe aver lasciato qualche segno. Ripeto, non significa che l'Inter ha perso, perché Mourinho era in tribuna e non in panchina, però Mourinho in modo particolare potrebbe avere con i suoi ragazzi una relazione diretta. Questa cosa si è notata ieri sera a Catania? Guarda, cioè, ho un messaggio. Quanto ha inciso una sconfitta di ieri dell'Inter, l'assenza in panchina di Mourinho? Secondo me molto più di quello che può sembrare, considerato il personaggio, scrive un ascoltatore, proprio quello che stai dicendo tu. E quasi arriva anche il terzo del Chelsea, ancora con Alex che aveva segnato il primo gol. Alessandro Alciato, cosa ne pensi quanto ha detto prima Andrea Zorzi? Quanto riguarda Mourinho, sono completamente d'accordo con quello che ha detto, perché è un fattore fondamentale. Io però avrei un'altra domanda: quanto hanno inciso o quanto ha inciso l'intervista rilasciata da Mourinho in un silenzio stampa, a questo punto solo teorico, alla Gazzetta dello Sport, in cui ha attaccato Balotelli, in cui ha puntualizzato le cose, in cui di fatto ha costruito una frattura fra lui e la società, e già insomma i rapporti non erano proprio idilliaci. Io non so quanto abbia inciso quell'intervista anche sul morale dei giocatori, perché dal giorno dopo qual è stato il pensiero comune, non so se giusto o sbagliato, ecco, Mourinho si prepara per andare ad allenare il Real Madrid l'anno prossimo. Mourinho, qualunque cosa faccia, la fa, io credo, con un obiettivo. Non so se ha centrato l'obiettivo rilasciando quell'intervista, di sicuro la sua assenza si sente sempre, ma quella è una cosa che possiamo vedere tutti. Quando lui c'è, i giocatori sentono la sua presenza fisica a pochi metri. Voi pensate una cosa: lui ha detto a tutti i suoi collaboratori che quando c'è una decisione dubbia in panchina, nel dubbio si devono alzare tutti a contestare quella decisione. Ed è una pressione che mette sui giocatori, ma anche sui direttori di gara e sugli avversari, una pressione assolutamente positiva per i tifosi di quella squadra, per i giocatori di quella squadra. Certo è che quando non c'è, cioè, si sente la sua assenza, però io credo che si senta anche troppo in questo momento. Non so se una squadra come l'Inter è giusto che dipenda così tanto da una sola persona, che in questo caso è l'allenatore. Tutto sacrosanto, caro Alessandro, quanto mi stava dicendo prima Andrea Zorzi. Questo è vero che l'Inter ha probabilmente in panchina il suo vero leader, condizionante finché si vuole, ma questo è certamente un limite. Però questo è certamente un limite. Sarebbe, come dire, un po' troppo poco restare ancorati al fatto che se ti manca il leader in panchina ne subisci le conseguenze. Questo mi pare abbastanza ovvio. Il problema è che, secondo me, Mourinho non è riuscito a lavorare abbastanza bene nel fare sì che la squadra senza di lui non abbia un livello medio di autonomia necessario. Sì, e quindi gli mancherà l'universo Mourinho, gli manca. Ovviamente si fa un'altra partita, ma l'altra partita non deve essere necessariamente quella di gente spaurita che non sa cosa fare, perché gli manca il capo in panchina. E questa secondo me è una mancanza che va addebitata a Mourinho, che da grande accentratore com'è non immagina nessun'altra situazione se non quella in cui lui è il centro di tutto, il catalizzatore di qualunque situazione avvenga. Mi pare settimana scorsa hanno studiato, fatto un sopralluogo per vedere in quale punto dello stadio andare per vedere la partita, e da lì ha urlato più di quanto non facesse dalla panchina. Questo però mi pare essere a volte un limite, perché ripeto, è chiaro che ti manca il tuo allenatore, però sai giocare lo stesso. Certo, o dovresti saper giocare. O dovresti. Alessandro, prima di salutarti, quando hai sentito Carlo Ancelotti l'ultima volta? Qualche giorno fa, diciamo, perché giorni immediatamente successivi alla sconfitta con l'Inter non ho osato chiamarlo. Hai fatto bene, secondo me. Perché sapevo quanto ci tenesse vincere a San Siro. E diciamo che è rilassato, diciamo che, vabbè, si sta vedendo insomma con questa vittoria 3-1 adesso, diciamo che per lui è meglio se recupera Cech in fretta il portiere, per l'Inter i suoi tifosi è molto meglio se non recupera invece, perché visto Ilario, il secondo, ha fatto dei disastri in genere, oggi è infortunato, gioca a Turnbull, diciamo che non è tanto meglio di Ilario, anche se la sta cavando in questo momento. Cioè, no, dipenderà molto dal portiere. Sì, dipenderà molto dal portiere, ma comunque tu, a sensazione, come la vedi la partita di martedì? Tutto è possibile. Tutto è possibile. Tutto veramente, cioè, sembra una cosa scontata, ma è veramente tutto possibile. Proprio perché sono due squadre che non permettono di fare pronostici quando si trovano uno davanti all'altra, per mille motivi, per la forza dei loro allenatori, perché hanno gente come Drogba da una parte, come Milito, come Eto'o, come mille altri nomi dall'altra parte, possono cambiare la partita da soli. Ci sarà Mourinho, e dai motivi che dicevamo, insomma, questa per l'Inter è un'ottima notizia. Grazie Alessandro, buon lavoro. Grazie a voi. Sempre, complimenti per la voce ad Andrea. Grazie. A proposito, saranno in pochi quelli che non hanno letto il libro di Alciato e Ancelotti, Preferisco la Coppa, ma se non l'avete letto ne vale la pena, perché ne vede fuori un ritratto straordinario di semplicità, con Alciato che ha riportato alla perfezione tutte le caratteristiche di Ancelotti, a me raccontato da Marco Nosotti, anche lui grande amico di Ancelotti, però è un libro sportivo che vale la pena leggere, perché è perfetto, è leggibile, scorrevole, interessante, pieno di aneddoti, è un bel libro. Poi viene fuori Ancelotti personaggio vero, di quello che insomma sarebbe bello qualche volta venisse fuori anche davanti ai microfoni, però Carlo è così. Guarda, l'ironia è uno di quei termini di cui ci sarebbe un grande bisogno, e Carlo è uno che sa fare il buono, ma non è scemo per nulla. Chiaro. È uno che ha grande esperienza, che sa essere spiritoso, che rappresenta la sua terra, che ama giocare sul fatto che gli piace mangiare, veramente molto molto piacevole, ed è da allora che io sono ancora più tifoso di Ancelotti. Come sai, siamo in due, me l'ho dichiarato pubblicamente inizio stagione, non a caso sto guardando il Chelsea, che ripeto sta vincendo 2-1 con il West Ham. C'è un ascoltatore che domanda un aggiornamento anche su Irlanda-Galles, ha vinto l'Irlanda sul Galles, poi parliamo anche di rugby per questo preview di Francia-Italia che si gioca domani. 800 24 0024, numero verde, c'è Giovanni, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti, volevo fare un intervento super sintetico. In qualità di juventino, vi ho sentito dire che Mourinho sarebbe un limite, il fatto che la squadra sia così dipendente da Mourinho. Ecco, io pagherei per avere una Juventus così dipendente da un allenatore, nel senso che la capisco. Preferirei molto di più avere una squadra dipendente da un allenatore che comunque è sempre presente, piuttosto che averla dipendente da uno, due o tre giocatori. Poi si paga clamorosamente. No, ma infatti Giovanni, lei ha ragione, ma io capisco anche, io ho detto mille volte, mi sono scontrato con gli ascoltatori su questo punto e continuerò a farlo, perché secondo me, come scriveva Mario Sconcerti qualche tempo fa in un articolo dedicato, in un servizio che Sette ha dedicato proprio a Mourinho, che era in copertina, che ha conquistato anche la copertina di Sette, è una grande occasione Mourinho, se scegli di non seguirlo, comunque è un'occasione persa per il calcio italiano, per lo sport, perché è un personaggio, e io credo che la Juventus avrebbe bisogno di un allenatore di un allenatore come lui. Poi, discorso che faceva prima, un limite certamente il suo peso specifico all'interno della squadra, però ogni squadra, ogni gruppo, tu lo sai meglio di tutti, Andrea, dipende sempre da un leader. Sì, io, o da leader, da io, alcuni esatto, leader. Esatto, io ripartirei dall'ultima frase, riparte dai leader, ma ciò che è più importante è che ogni squadra, ogni allenatore trovi il loro modo per andare d'accordo e per realizzarsi. Mourinho deve fare il Mourinho e non può fare un altro, non può fare Lancelotti. Lancelotti non può fare il Mourinho. Alla fine ciò che è veramente importante è riuscire a capire in che modo e quale strada percorrere. Evidentemente alcune regole vanno rispettate, che sono quelle più semplici: massimo impegno, entusiasmo, coerenza, sono le solite basi. Non ci sono ricette per vincere, ma ci sono ricette per perdere. Se non rispetti alcune regole non vinci sicuramente. L'importante è che non si prenda un'immagine che non appartiene alla tua squadra e la porti nella tua, perché quasi sicuramente non funziona. Quell'immagine deve crescere pian piano nell'ambiente in base ai giocatori che hai a disposizione, alla società e alle caratteristiche dell'allenatore. Queste tre cose messe insieme possono creare una grande squadra. Non puoi prendere una e metterla dentro, sì, sì, sperando che da sola risolva tutto quanto. Certo, però una cosa, qualche tempo fa ne parlavo, facevo questi discorsi anche con Davide Pessina, che ben conosci, no? E diceva, da giocatore, da ex giocatore, io non lo giudico, non so se è bravo, non è bravo, simpatico, non è simpatico, però noto una cosa da ex giocatore, che la squadra sta con lui, salvo quelle magari, metti Balotelli, metti quelle due o tre eccezioni fisiologiche, però il gruppo è con lui e questo è senz'altro un merito per un allenatore. Sì, è un merito. Io ho qualche dubbio sulla sostenibilità di una relazione di questo tipo, perché lui alza sempre il tiro, alza moltissimo e crea quindi dei fortissimi rischi, che significa che dopo un po' potrebbe in qualche modo rompersi la relazione. Mi piace molto di più un modo un po' più sostenibile, fatto anche di messaggi molto chiari. Non è che va bene tutto, però quello di Mourinho per me corre veramente il rischio di forzare troppo la mano e poi di rompersi un po' troppo in fretta. Tu hai giocato però per costruito hai scritto pagine di leggenda dello sport italiano con un allenatore che non ti dico ricorda Mourinho, però con un allenatore dalla personalità straordinaria, debordante, con un grande comunicatore, forse, con un uomo di grande carisma. Forse Velasco. Forse per quello che mi viene in mente quali sono i rischi che anche Mourinho può correre, nel senso che Velasco all'inizio è stato veramente una grande opportunità per noi, perché è arrivato con le idee chiare, con messaggi molto semplici e molto chiari, condivisibili, e ci ha permesso in qualche modo di crescere molto in fretta. Ciò che è importante è che se tu vuoi fare aprire un grande ciclo, poi devi avere la capacità del gruppo e dell'allenatore di cambiare questa relazione, di modificarla senza snaturarla. Devi cambiare, devi crescere tutti insieme. All'inizio Velasco è stato perfetto per noi altri e si è vinto molto in fretta, poi alla fine la relazione è cambiata, ma sono venuti fuori anche i difetti nostri e suoi. Ecco perché ho l'impressione che a Mourinho manchi un po' la capacità di essere disponibile in una modalità diversa da quella che lui propone sempre. Mourinho dice quello che vuole, fa quello che vuole, decide sempre lui. Questo è il messaggio che lui comunica sempre e comunque, e per me questo è un rischio. Cioè, scrive Mourinho maleducato e antisportivo, punto. Mi sembra un po' troppo semplicistica questa dichiarazione, però indubbiamente è un personaggio in grado di dividere. Certo che da giocatore, comunque, giocare, e torno al tema di Velasco, per un allenatore così, che sai che è anche il tuo parafulmine, che sai anche che è anche il tuo salvagente, che sai che attira su di sé grandi attenzioni, che sai che è un grande comunicatore, cosa vuol dire per un giocatore? Prova a guardarla con un occhio diverso. Giocare per qualcuno che ha fiducia di te. Come questa fiducia venga mostrata, la si può mostrare in mille modi diversi: difendendoti sempre, oppure mettendoti di fronte alle tue responsabilità. Ciò che è veramente importante è sentire che sei supportato, non sostenuto a prescindere, supportato, che ti sta spiegando perché sta facendo una cosa. Sapere che le persone che sono intorno a te credono in te, criticandoti, facendoti capire, no, hai sbagliato, quindi questa è la differenza. Non sto chiedendo di avere sempre ragione, di essere coccolato e vezzeggiato, ma sto chiedendo di avere la sensazione forte che chi è insieme con me nella mia barca sia in questo momento deciso a fare il massimo insieme a noi. Questa mi pare la forza. Sarà stato qualche volta in cui è uscito con dichiarazione alla stampa di un tenore e poi uno spogliatoio ha detto altro e hai avuto la sensazione che giocasse questo ruolo del parafulmine, che giocasse a questo ruolo? No, io questa non l'ho avuta. No, ho avuto una sensazione, in questo mi ricorda Mourinho, che talvolta l'ho scoperto molti anni dopo. Lui è riuscito un po' a creare l'idea della setta più che del gruppo. Setta vuol dire che alla fine, tu sai bene, Lippi ha vinto 4 anni fa un mondiale creando un fortino: chi è fuori è un nemico, chi è dentro è amico e lotta contro di tutti. Ha una forza motivazionale straordinario questo. Ebbene, qualche volta accade, e qualche volta per vincere un obiettivo molto vicino, questo è un metodo perfetto. E non è, secondo, è anche pericoloso. Quindi qualche volta Velasco forse ha forzato un po' la mano anche sul fatto di creare un gruppo contro tutti. E per vincere qualcosa qualche volta ne vale la pena. E letto poi da ex giocatore molti anni dopo, credo che i giocatori, che noi siamo fatti un po' ingannare da questa situazione, lui ha forzato un po' le contrapposizioni. Molto interessante, molto interessanti le cose che dice, perché non sapevo la pensassi così. Ma in realtà lo penso adesso così, eh. Cioè, io l'ho scoperto molti anni dopo, la mia ex compagna me l'ha detto, Fabio Vullo mi ha detto, voi non eravate un gruppo, eravate una setta. Ora, non ha ragione Fabio Vullo totalmente, però la vedi con un occhio diverso e ti rendi conto che tutte quelle motivazioni fortissime che ci hanno portato a giocare super motivati contro gli avversari e contro gli altri per dimostrare che noi siamo a ragione corrispondono un po' alle caratteristiche delle sette, che è una parola forte in questo caso perché si pensa a sette religiose, però guarda che è un po' così. Fortunatamente si tratta di giocare a pallavolo o un altro sport e non a fare cose pericolose, però in qualche modo esistono queste caratteristiche che, ripeto, possono essere un po' pericolose. Cosa ne pensate? Terzo gol del Chelsea sul West Ham proprio in questo istante, lo segna Malouda, 3-1 dunque 77esimo di questa prova generale in vista Inter. Andrea Zorzi sempre qui con me, vedo anche degli ascoltatori che arrivano, 800 24 00 24 è il numero verde, però ci sono molti messaggi, uno di questi è: il Milan ce la farà a schierare 11 uomini in campo domani contro il Chievo? Lo scrive Roberto da Arezzo. Preview di campionato, Giovanni Capuano, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ce la fa. A fatica, ma ce la fa. Sì, poi vediamo se sono 11 c'è Ambrosini al centro della difesa, perché a quel punto parliamone. Non credo che verrà ripetuto l'esperimento. No, domani non, assolutamente non viene ripetuto l'esperimento al centro della difesa con Thiago Silva, giocherà Favalli. C'è da considerare che nell'emergenza alla fine Leonardo è costretto a riconvocare, a rimettere nel gruppo degli attivi, chiamiamoli così, due giocatori che sin qui sono stati per vari motivi esclusi dal progetto Milan, che sono Oddo e Calazze, che ovviamente a meno di ulteriori emergenze dovrebbero però partire dalla panchina. Oggi Leonardo ha parlato molto di Manchester e molto di campionato, poi in realtà sul campo ha mischiato tanto le carte in vista della partita di domani, perché ad esempio sull'ipotesi di giocare ancora con i due centravanti in conferenza stampa ha fatto capire che sì, si può riproporre, ma in fondo la storia del Milan in questa stagione propende più su un altro tipo di moduli. Di modulo. In realtà nella rifinitura ha provato e come i due, Untelar e Borriello, in realtà ha mischiato un po' le carte perché ha provato anche Inzaghi, un altro che di minuti ne ha fatti davvero pochi, e ha provato Beckham sulla linea dei tre davanti. Insomma, quasi a tenersi aperte un po' tutte le possibilità. In conferenza stampa gli è stato chiesto se in questo finale di stagione non ritiene opportuno provare a tenere un po' tutti sulla corda, i suoi uomini, perché forse ci sarà bisogno davvero delle energie di tutti per provare a chiudere questa rimonta sull'Inter. Leonardo ha risposto di sì, ho l'impressione che da domani certe gerarchie potranno cambiare in casa Milan, cercando ogni tanto di far rifiatare anche quelli che fin qui hanno giocato tantissimo. Uno ad esempio è Borriello, lo stesso Leonardo ha detto, è vero, a Manchester l'ho visto un po' in calo, e così nelle ultime settimane bisogna considerare che sin qui ha fatto forse la miglior stagione della sua carriera, Genova a parte, e quindi probabilmente, questo non lo ha detto, però se si segue il filo del suo discorso si può provare a concludere in questa maniera, probabilmente chi ha avuto meno minuti fin qui, ad esempio Inzaghi, può pensare da qui a fine della stagione di togliersi qualche soddisfazione in più. Ma c'è ancora Inzaghi al Milan? Non me lo ricordavo più, in tutta sincerità. Sentiamo una battuta di Leonardo oggi in conferenza stampa a proposito della corsa riaperta verso l'Inter. Io credo che l'Inter sicuramente ha perso, il fatto di perdere, abbiamo una partita in più da giocare e possiamo essere più vicini, però non credo che sarà determinante tutto fino alla fine, mancano troppe partite, però è bello essere in lotta, essere lì vicino e far la cosa, diciamo, sempre più viva, ci mancherebbe altro, quella è una cosa bella da vivere e viverla oggi è molto bella, avere questa cosa presente, principalmente dopo una sconfitta pesante, ci mancherebbe altro. Questo era Leonardo. Giovanni Capuano, tu stai lì, adesso voglio dare un'occhiata ai messaggi e parlare con un paio di ascoltatori. Velasco, senti questa, Andrea, lo scrive Chris da Castelfranco, provincia di Treviso, vicino a casa tua. Velasco ha cambiato la mentalità dell'Italia, che ha battuto il Brasile a casa sua, per esempio. Anche gli italiani sono setta ma di ottusi, scrive Chris. Dunque, devo forse riformulare con più attenzione, perché setta è un termine molto forte. Ma rende... Rende l'idea. Sì, rende l'idea. In realtà davvero non c'è nulla di male nell'essere setta, però visto che lo sport in genere si preoccupa di provare a vincere un certo torneo, farlo rispettando le regole, con progetti a breve scadenza, è corretto qualche volta utilizzare delle strategie anche abbastanza rischiose. Non so se ho già parlato con te, ma qualche volta gli allenatori fanno apposta a creare anche dissapori all'interno della squadra, perché se c'è un leader magari che viene considerato fin troppo riconosciuto, e qui il caso a me Lucchetta potrebbe essere anche troppo facile, può essere utile quella di motivare ancora di più i compagni per far vedere che la squadra non è Lucchetta e Zorzi, e questo fa tirare fuori il massimo delle energie. Ora è evidente che questa strategia può essere rischiosa, perché a lungo andare non può reggere, ma se tu devi arrivare alla fine di un europeo e manca poco tempo, è più che legittima. Ovviamente, vista dal punto di vista strettamente umano, è criticabile, ma qui stiamo cercando di vincere un europeo e un mondiale. Questo quindi fa rivedere sotto un'ottica diversa quelle che sono strategie un po' rischiose che si possono mettere in atto quando si guida una squadra. Sul fatto che ha cambiato la storia, è verissimo, Velasco ha cambiato la nostra storia, e all'inizio è stato meraviglioso, perché noi eravamo convinti che ciò che diceva Velasco fosse sempre tutto perfettamente giusto, ed è una sensazione meravigliosa. Ovviamente ad anni di distanza dici, non è che fosse tutto così perfetto, la percezione era quella. Adesso rispondi a un paio di ascoltatori, sei pronto? Renato a Cremona, Alessandro da Roma. Renato, buongiorno. Buongiorno. Dica. Innanzitutto volevo fare i complimenti ad Andrea Zorzi per... come dire, la chiave di lettura che sta dando su certo su queste cose. Fuori classe Zorro, è fuori classe sul campo e anche fuori dal campo, è una piacevolissima sorpresa per me. Ma io in realtà volevo dire un paio di cose su Mourinho, e premetto che Mourinho non è un personaggio che mi sta particolarmente simpatico, perché credo che abbia fatto molto in fretta ad adeguarsi un po' a quello che tra virgolette si può definire il malcostume italiano. Sì. Si è abituato subito, di certi atteggiamenti, certo, verso gli arbitri, cosa che mi sembra che nella Premier League non praticasse in questi modi. A fasi alterne, anche lì le sue sceneggiate le ha fatte, le sue sceneggiate le ha fatte. Poi diciamo che è un po' più. La seconda cosa invece credo che, questione Balotelli, invece credo che Mourinho, il suo lato positivo possa essere identificato nel fatto che cerchi di portare al calcio italiano una gestione un po' più manageriale. Mi riferisco alla dichiarazione che ha fatto Branca dicendo sì, Balotelli ha giocato così, ma era sempre eccitante, e Mourinho l'ha subito smentito dicendo... Cioè, io un giocatore con la febbre non lo faccio giocare, perché altrimenti non mi pare, però, che guardi Renato, mi sembra, adesso non voglio stare qui a spaccare capello, anche perché non mi sembra che la storia valga la pena, però non mi pare che Branca abbia detto Balotelli alla febbre nel dopo partita, semplicemente che era stato male nell'intervallo. Giovanni Capuano però era allo stadio, no Giovanni? Sì, assolutamente. Branca non ha mai parlato di febbre, appunto. Ha parlato di un malore di stomaco nell'intervallo, ha detto che il giocatore comunque non stava benissimo, e quindi a questo era legato soprattutto nel secondo tempo un rendimento certamente non sufficiente proprio dal punto di vista fisico, al di là di ogni giudizio poi sull'atteggiamento tecnico e tattico in una partita tra l'altro in cui Balotelli certamente non è nemmeno stato il peggiore, però a onor del vero non è stato Branca a parlare di febbre, le voci sono uscite da tutt'altra parte, Mourinho se ne è risentito e con gli stessi canali poi ha provveduto a recapitare la risposta. Alessandro da Roma, buongiorno. Ah, buongiorno. Volevo parlare, volevo chiedere al maestro Zorzi, che mi sembra parli come uno psicanalista evoluto, se tutto quello di cui lui racconta è un fatto strategico, consapevole, o l'allenatore in qualche modo è già così, cioè ha i suoi difetti che poi si trasformano in punti di costruzione di forza di una squadra. Ecco, perché mi ha un po', sono curioso di capire se tutto ciò, cioè la costruzione di una vittoria, è un qualcosa che in qualche modo è progettabile più di ciò che sembra, ecco. No, direi di no. Direi che ogni allenatore ha in mente una strategia, cerca di conoscersi, ha fatto alcune esperienze, per questo è importante avere già allenato in altre occasioni, definisce l'area nella quale si sente più a suo agio. Poi deve avere quella grande capacità e tranquillità per affrontare le situazioni per come sono, rispetto a un piano che si è immaginato, ma deve essere prontissimo a cambiare la strategia quotidiana. Questo è il grande segreto degli allenatori, quindi di essere così tranquilli e così sicuri che un eventuale imprevisto non gli fa traballare le mani, non gli fa tremare più di tanto. Ovviamente poi ognuno la farà in base alle sue caratteristiche. Io l'invito che porgo sempre è quello di evitare in ogni caso di dividere nel bene e nel male, giusto o sbagliato, qualunque tipo di condizione, vale in ogni aspetto, quindi non è totalmente progettabile una vittoria, ma una vittoria non arriva per caso. Un allenatore non può definire al dettaglio qual è la strada vincente, allo stesso modo se non ci pensa un po' prima, se non capisce, se non valuta, non ha da nessuna parte. Questo grande equilibrio molto fragile è come sempre, secondo me, il fattore vincente in moltissime situazioni, certamente nello sport, e ne parlo con più tranquillità perché ci ho visto per un sacco di tempo, ma penso che valga anche per gli altri eventi. Abbiamo parlato tanto del Milan, ma non della Roma, che insomma mi pare proprio che sia lì, attaccata al Milan e attaccata all'Inter, potrebbe essere ancora più vicina domani sera. Giovanni Capuano. Sì, oggi Ranieri, così come del resto Leonardo, ha provato ancora a tenere i fari spenti, a viaggiare al coperto, al buio, ha detto ma noi siamo lì, se l'Inter decide di buttare via lo scudetto posso solo promettere ai tifosi che noi faremo di tutto per guadagnarci la chance di potercela giocare fino in fondo. Certo che se domani la Roma dovesse passare a Livorno e portarsi a 4 punti dall'Inter con il 28 marzo lo scontro diretto in casa, è davvero difficile pensare a una Roma che non accarezzi il sogno dello scudetto. Roma che però ha diversi problemi di formazione, perché ovviamente non c'è ancora Totti, anche se in realtà il suo rientro dovrebbe avvenire già in gruppo settimana prossima, e notizia di pochissimi istanti fa, Roma che ha perso anche Vucinic. Oggi Ranieri in conferenza stampa l'ha dato per convocato, anzi l'ha dato addirittura per titolare a Livorno, dicendo che per lui sarebbe stata una sorpresa se il giocatore gli avesse detto di non essere disponibile. Beh, il giocatore non solo non si è dato disponibile per giocare dal primo minuto contro Livorno, ma alla fine, dopo la rifinitura, non è nemmeno salito sul pullman che porta la squadra in Toscana. Farà degli approfondimenti al ginocchio sinistro, al gemelli, è parso molto preoccupato, è un ginocchio che già quest'estate gli ha dato fastidio, è stato operato, non è mai completamente guarito, e quindi c'è un po' di preoccupazione in casa Roma, anche perché Vucinic è un giocatore fondamentale per certo. Ranieri, che ha detto che domani giocherà Toni titolare dal primo minuto, lo aveva detto in assenza della notizia su Vucinic, quindi aveva un valore. Adesso diciamo che Toni gioca anche perché non rimane praticamente nessun altro, diciamo che giocando Toni cambierà un po' il modulo di Ranieri, che dovrebbe giocare con un 4-4-2, si cerca un partner per Toni, dovrebbe essere Giulio Baptista, con Cerci in panchina. Per il resto la Roma sta abbastanza bene in difesa e a centrocampo, dove non verranno toccati quegli equilibri che per quanto con una squadra un po' faticata in queste settimane l'hanno riportata a contatto con la vetta. Il Livorno è in emergenza, mancano 7 giocatori, ci sono 7 assenti. Cosmi, che può far poco perché ha bisogno soltanto di far punti, gioca con 2 attaccanti, c'è Lucarelli, la novità è che non c'è Mozart in regia, è per lui una mezza bocciatura, ma Cosmi cerca una formazione un po' più muscolare da opporre al calcio della Roma. Tanto altra brutta notizia per i tifosi dell'Inter, io credo 4° gol del Chelsea, che mi sembra stia dando una grande risposta a un momento un po' così. 4° gol del Chelsea e 2° personale di Didier Drogba. Giovanni, chiudiamo velocemente sulla Juventus. Gioca col Siena. Velocemente sulla Juventus, dove gli assenti anche qui sono tanti, ce ne sono 6. Ha detto Zaccheroni che non giocheranno gli stessi 11 di Europa League. C'è anche in dubbio Felipe Melo, rientra però Del Piero. Ci sarà uno spezzone di partita per Iaquinta, che ha bisogno, ha detto Zaccheroni, di mettere minuti nelle gambe. E potrebbe non giocare Diego, soltanto domani però la decisione su un turno di riposo al brasiliano. Attenzione al Siena, che ha fatto 8 punti nelle ultime 4 giornate. Zaccheroni lo sa benissimo e sa soprattutto che la sua squadra è ancora altalenante. Difatti ha parlato di concorrenza feroce per il 4° posto. non dimentica che 7 giorni fa a quest'ora si trovava con un piede in Europa League e poi ha vinto a Firenze, ma il campionato da questo punto di vista è ancora lungo. Grazie Giovanni. Grazie a Giovanni Grazie Capuano. Andrea da Padova che scrive: vorrei tanto sentire voci fuori dal coro come Zorro anche nel calcio. C'è Mourinho? non mi picchiare, eh? No, ci mancherebbe altro, ma che lui abbia cambiato la modalità di relazionarsi e che sia la gioia di ogni giornalista, su questo non c'è alcun dubbio. Cioè, tu volevi fare un invito agli ascoltatori. Ma sì, è un invito che non può essere rivolto né ai tifosi dell'Inter, sì, né ai troppo antitifosi dell'Inter, sì, perché sono ovviamente poco obiettivi, e neanche ai giornalisti, perché c'è una tale fame di notizie che qualunque cosa un giocatore, l'attore dica è benvenuto, perché così riempi lo spazio radiofonico, televisivo o nei giornali. Però, visto che mancano un paio di mesi, 2 mesi e mezzo alla fine del campionato, l'idea è quella di guardare con un po' di attenzione, ma se trova partecipazione, a ciò che Mourinho dice. Nel senso che noi siamo abituati adesso, proprio per la frenesia delle notizie, a pensare che tutto ciò che ci viene detto sia fondamentale. Sì. Se lo riguardi una settimana dopo, ciò che era fondamentale il mercoledì della settimana scorsa non lo è per nulla. Solo qualcosa, quando guardi indietro, rimane più o meno importante. L'idea è, invece di farci prendere da queste montagne russe, di Mourinho un santo, un Mourinho uno da eliminare, vedere un po' nei prossimi 2 mesi e mezzo, evitare di farsi prendere da queste contrapposizioni nette. Aspettando. Lui è un personaggio ovviamente molto abile, abilissimo, molto coraggioso, lo si diceva, perché fa dichiarazioni che possono essere pesantissime e poi è lì in conferenza stampa a sostenere la sua parte. Però invece di cascare in qualche modo in questa sua metodologia, restiamone un po' al di fuori e vediamo tra 2 mesi e mezzo cosa succede. Tifosi esclusi. Vabbè, sono un po' tifosi. Invito rivolto alla riserva indiana. Prova ci troviamo qui e facciamo i conti. A tutti quanti gli appassionati di sport, di basket, pallavolo, pallanuoto, pallamano, tutti gli altri che seguono le trasmissioni e che sono interessati al calcio, come è giusto che sia, ma che non sono presi dalla quotidianità. Sono interessati per esempio, a vedere se la macchina di Mourinho è entrata dal piano Gentile o no. A quanti secondi ci mette il cancello ad aprirsi o a chiudersi, o di che colore è l'erba di Milanello, capisci? Sì, coloro che in qualche modo vivono normali, esatto, vivono normale. A loro è rivolto questo invito. Siete, a proposito di grandi personaggi, è tornato Schumacher finalmente. A me per esempio Schumacher non è mai stato simpaticissimo, però ben venga Schumacher a creare il mondiale di Formula 1 più atteso degli ultimi anni. Ma non c'è dubbio, anche lì io di solito ho detto, ma no, i ritorni sono spesso ridicoli. Sì. E l'ho pensato un sacco di volte. Anch'io, l'ho pensato su di me, l'ho pensato. Ma io lo penso ancora. In valore assoluto, eh. Poi ogni regola mette le eccezioni. Però oggi cos'è? Settimo, mi pare, vero? Settimo. Insomma, è vero che lì c'è esperienza, macchina, tante cose. Però io sono curioso, sono sinceramente curioso di vedere cosa succede. Non so dirti neanche cosa mi auguro. Anche a me non è particolarmente simpatico Schumacher, non lo è mai stato. Però confesso che sono comunque interessato, certo, a vedere cosa sta accadendo. Anche perché negli ultimi 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni di Formula 1, insomma, tra i pochi sorpassi, le macchine che vincono sempre le stesse, non era proprio un ambiente così eccitante. Mario Poltronieri, buonasera. Buonasera, ciao Carlo, buonasera a tutti. Stiamo tutti aspettando, aspettando il primo semaforo che si spegne domani, con Schumacher settimo, come stavamo dicendo, con Vettel davanti a tutti, davanti alle due Ferrari, Massa e Alonso, che sono andate bene oggi. Sì, diciamo che si è tutto sommato confermato un po' quella che era la previsione, cioè che Vettel è realmente con la sua Red Bull un concorrente duro per il campionato del mondo. Però il secondo e terzo posto di Massa e Alonso confermano anche sul giro singolo che la macchina è molto a posto, soprattutto tenendo presente che loro hanno preparato la vettura in funzione del passo gara. Quindi domani partono come favoriti. Direi che c'è un distacco abbastanza consistente invece da parte della McLaren e della Mercedes. Soprattutto la Mercedes è molto, molto poco soddisfatta delle prestazioni, anche del suo motore montato su altri telai, perché è un motore sul quale loro puntavano molto perché pare che consumi un po' meno. E qui torneremo al famoso discorso del consumo. Io penso che con i sistemi che ci sono oggi di controllo, difficilmente, come succedeva invece 20-30 anni fa, si fermino lungo la strada. Però un problema c'è, per esempio, per vedere il comportamento reale delle gomme partendo da 800 kg quando uno ha 240 kg di carburante, sì, a quando diventa 650 eccetera, perché cambia ad esempio l'altezza da terra della macchina, quindi modifica anche l'effetto suolo, per cui c'è un insieme di condizioni che richiedono al pilota di saperle padroneggiare. In questo contesto Schumacher è un po' svantaggiato, perché lui amava la macchina brusca, invece con le ruote anteriori più strette e col passo più lungo la guida deve essere un po' diversa. Del resto lui l'ha detto, sono un po' arrugginito. Arrugginito, penso che però nel corso della stagione abbia tempo di recuperare. Certo, l'esordio di oggi è nettamente a favore della Ferrari e della sì, Red Bull. Sì, sì, non c'è dubbio. Mario, domani ne parliamo, domani pomeriggio a bocce ferme, a ordine d'arrivo in mano, ne parliamo. Grazie. A domani, grazie a Mario Poltronieri. Domani ovviamente dalle 5 alle 7 saremo insieme e i temi saranno tantissimi, perché dalla domenica del calcio del campionato alla Formula 1 al rugby. Guarda, per rilacciarmi a quanto detto di tecnologico da Poltronieri, ieri sera stavo facendo zapping, ho visto un'intervista che non ho idea di quando, a quando risalga, di Valentino Rossi. La domanda era: ma se tu fossi imperatore del Gran Premio, del GP, cosa faresti? Lui ha detto: toglierei il 70% della tecnologia. Sì, sì, partirei da questo. Ma tutti i piloti dicono così, eh? E allora, ovviamente non per la sicurezza, ci mancherebbe altro, però l'idea è, io sono affascinato nel sentire che i chili di carburante cambiano l'assetto, il passo più lungo, però poi non sono effetti godibili. È difficile, occorre essere veramente un tecnico. E allora l'idea è che ci sia la possibilità di tornare un po' a quello che è un po' la pancia del motore, certo, che sbanda, che lo tieni dentro. Se questo fosse il risultato del 70% di tecnologia in meno, credo che sarebbe quasi auspicabile, salvaguardando sempre e comunque la sicurezza naturalmente dei piloti, dei, certo, circuiti e quant'altro. Questo è naturale. Vedi, Valentino Rossi è l'esatto opposto di Mourinho, è personaggio, è carismatico, mai amato da tutti. Lui, devo dire che l'opposto. È proprio la più grande e inspiegabile, in senso positivo, sorpresa degli ultimi 15 anni, perché si è rinnovato, ha vinto moltissimo. Di solito chi vince molto non è simpatico, è passato di mezzo a vittorie, a sconfitte, mette, niente l'ha mai sconfitto. Sì, sì, è un, sì, personaggio, sì, vincente e bravo e simpatico. Andrea, grazie, quando torni? Sabato prossimo. Fantastico, la voce non è male comunque, anche se nessuna ascoltatrice è venuta a dirtelo, che è un segnale quindi che non va bene. Accontentati della mia valutazione. Grazie a Andrea Zorzi, a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, Fabio Cantadone in regia. Domani dalle 5 alle 7, poi dalle 8 e mezza alle 9 il basket. A domani.